conosciuti per caso, anche se te facevo un altro. Subito per me sei stata al centro, zero finzioni, non è un'altra fregatura. Voglio convincerti che questa storia è pura. Non voglio ingannarti, sono diverso dalla massa. Il battito mi sazia quando ci sei te impazza. L'effetto che mi fa la tua mano nella mia via. Tutte le parole diamo inizio alla follia. Cos'è la poesia? Non chiederlo più. Guardati allo specchio, la poesia sei tu. Voglio stringerti tra le mie braccia e non lasciarti andare. Sapere che ci sei e poterti chiamare amore. Ti farò dimenticare la parola dolore. Di parola che dico. È una parola d'onore, una promessa eterna che non può soccombere. Voglio noi un legame che non si può rompere. Sei quello che vorrei d'inverno quando fa freddo. Il buio sembra eterno, io sono disperso. Sei quello che vorrei, l'amore per te è immenso. Ogni minuto ti penso, sei quello che vorrei. Sei quello che vorrei d'inverno quando fa freddo. Il buio sembra eterno, io sono disperso. Sei quello che vorrei, l'amore per te è immenso. Ogni minuto ti penso, sei quello che vorrei. Voglio che non ci sia nessun altro in mezzo. Ascolto col cuore ogni parola di questo pezzo. I capelli mossi al mattino dal vento fresco. Stupendi come trovare un po' d'acqua nel deserto. Voglio svegliarmi ogni giorno col taglio in fianco. Dirti ciò tesoro, baciarti e saltarti addosso. Ogni problema che arriva lo affronteremo insieme. E poco dire solamente che ti voglio bene. Con la luna ti sogno, con il sole ti penso. Voglio dare a tutta questa relazione un senso. Riesci a farmi scordare tutto il male del mio passato. Riempi quel posto nel cuore che è sempre stato incolmato. Guardo i tuoi occhi e vedo i riflessi miei. Non cambiare, ti voglio così come sei. Quello che provo è inspiegabile. Questo è un tentativo per te, voglio essere più di un amico. Sei quello che vorrei d'inverno quando fa freddo. Il buio sembra eterno, io sono disperso. Sei quello che vorrei, l'amore per te è immenso. Ogni minuto ti penso, sei quello che vorrei. Sei quello che vorrei d'inverno quando fa freddo. Il buio sembra eterno, io sono disperso. Sei quello che vorrei, l'amore per te è immenso. Ogni minuto ti penso, sei quello che vorrei. Sei quello che vorrei d'inverno quando fa freddo. Il buio sembra eterno, io sono disperso. Sei quello che vorrei, l'amore per te è immenso. Ogni minuto ti penso, sei quello che vorrei. Sei quello che vorrei d'inverno quando fa freddo. Il buio sembra eterno, io sono disperso. Sei quello che vorrei, l'amore per te è immenso. Ogni minuto ti penso, sei quello che vorrei.